Allora, un buon pomeriggio, siamo in collegamento telefonico con Bianca Cerri, giornalista e soprattutto americanista, che con noi ha seguito un ciclo di trasmissioni speciali sulle elezioni degli Stati Uniti in questo 2004 dal titolo L'elefante e l'asinello. Intanto buon pomeriggio Bianca e benvenuta. Salve a chi è in ascolto in questo momento. Allora, intanto un commento a caldo, questa elezione di Bush cosa ti fa pensare a caldo? Beh, non era prevedibile, ma non era neanche scontato che vincesse Kerry d'altra parte, quindi non c'era, era, forse si parlava di vittoria a photo finish tra i due. Sembra che Bush abbia preso invece qualche voto in più di quelli che erano previsti, chi parlava di una vittoria, di una differenza di 500 voti. Dispiace molto vedere Bush alla Casa Bianca, anche se certamente Kerry in politica estera non è molto diverso, ma ci chiediamo che costo umano avrà tutto questo, e non sarà certamente un costo lieve. Per tornare un po' ai personaggi, c'era un terzo incomodo che avevamo visto anche nelle edizioni passate, si tratta di Ralph Nader. Che ruolo ha giocato secondo te in queste elezioni? Nader ha giocato, i democratici volevano far credere che Nader abbia preso da loro voti, è successo piuttosto il contrario, perché Nader è molta, io non so, un numero infinito di persone avrebbe voluto votare Nader, ritenendo che così facendo avrebbe disperso il voto, poi ha deciso di votare per Kerry. Io insisto, sarebbe comunque stato un voto di cui poi il potere avrebbe dovuto tener conto, perché è un voto che esprime un forte dissenso delle politiche bipartitiche del potere centrale americano. E così non è andata. Bianca, avevamo anche visto un altro dato che un po' sorprende. Bush in realtà ha preso il voto della gente, della popolazione, eppure stando alle previsioni che si facevano in precedenza c'era un ruolo giocato dalla povertà degli Stati Uniti in questo momento, c'era un ruolo giocato dalle categorie più svantaggiate. Sembra che questo non abbia poi rispecchiato il voto finale. Ma questo veramente è incomprensibile. L'unica cosa è l'impatto è che la gente è più terrorizzata forse dalla propria condizione di disagio, più che dalla propria condizione di disagio, dal terrorismo. Sono riuscita ad instillare nel popolo questa fobia costante dell'attacco imminente, questa atmosfera kafkiana del deserto dei tartari, con questi tartari che sovrastano l'America, che in realtà non esistono, lo sappiamo, se c'è casomai è vero l'opposto, eppure la gente prevale su tutti questo sentimento di attacco imminente, e quindi Bush viene visto come il grande salvatore, colui che li ha portati fuori li porterà fuori dall'incubo dell'11 settembre e dall'eventualità di un attacco che può accadere da un momento all'altro. Per cui insomma diciamo che sul piano interno non si è giocato assolutamente nulla. No, è una specie di sindrome di Stoccolma a livello politico, io direi, come accade che il rapito si affezioni al rapitore, in realtà il popolo si sta affezionando al tiranno, perché ha bisogno di una guida, disperatamente cerca qualcuno. Kerry non ha saputo proporsi, diciamo la verità, non è un uomo di grande mordente, non è forse neppure persona votata alla politica, quindi troppo distacco dalla popolazione. Bush ha saputo meglio interpretare il ruolo del mattacchione, diciamolo, no? Facendosi prendere in maniche di camicia. È stata un'opera fatta d'arte dal grandissimo consigliere di Bush, Karl Rove, lo sappiamo, il talent scout dell'attuale, ahimè, presidente. E quindi non cercano l'uomo forte, hanno visto i muscoli di Bush e tutti si sono incolonnati verso la guida. Senti, alcuni osservatori dicono che non c'è mai una presidenza uguale a quella precedente, scusa l'intreccio di parole, nel senso che anche un secondo mandato di Bush potrebbe essere leggermente diverso dal primo. Come la pensi tu? No, io escludo che Bush sia una persona che tenga in alcun conto. Bush, di nuovo, la sera in cui ieri è stato eletto presidente Bush, è morto un uomo che è stato giustiziato con un mandato di morte firmato da Bush all'epoca del suo governatorato. Dunque, e la sera che Bush venne eletto governatore in Texas, era il 17 gennaio del 95, e Bush diede una festa, e mentre c'era questa festa in corso fece uccidere un malato di mente. Bush non ha alcun rispetto per la vita umana. Io dubito che chiunque possa aspettarsi un qualsiasi interesse o rispetto per i diritti umani da parte di George Bush, lo escludo. Abbiamo parlato di politica estera con la fobia del terrorismo, questa sorta di sindrome di Stoccolma, abbiamo visto un po' sul piano interno, ma hai menzionato la pena di morte. Ne abbiamo parlato nell'ultima puntata dell'elefante e dell'asinello, è qualcosa che dunque rimane all'ordine del giorno negli Stati Uniti e che per il momento non si scrollano di dosso. È vero che come presidente Bush non può influire, è pur vero che Bush ha portato con sé come consigliere di leggi penali Alberto Gonzalez, che è stato uno dei massacratori dei condannati a morte all'epoca del governatorato Bush, e è vero che Bush ha sempre e pur sempre il potere. Adesso uno dei giudici di Corte Suprema risulta ammalato di tumore, naturalmente pur senza augurargli male, ci auguriamo che sarà poi sostituito, se dovesse mancare, da una persona più umana, ma trattandosi di George Bush, il quale per Costituzione è colui che sceglierà i giudici della Corte Suprema, temo che alla Corte Suprema andrà Gonzalez, e quindi le esecuzioni, se sono state 19 fino ad ora, quelle avvenute in Texas, sono destinate, se non almeno a triplicare. Bianca, un'ultima battuta, poi ti lasciamo, sappiamo che hai passato una lunga nottata. Un ultimo commento, un ultimo bilancio, quello che secondo te adesso rischia di essere più eclatante nello scacchiere sia nazionale all'interno degli Stati Uniti sia internazionale. Ma molti temono, io temo di essere d'accordo, non forse l'attacco, l'assedio direi all'Iran. L'assedio all'Iran, sicuramente da più parti mi giunge questa cosa, persone molto più competenti di me in materia di politica estera insistono, l'assedio all'Iran è pronto, io spero che la realtà smentisca questa ipotesi. Un'ipotesi che nessuno può smentire è che Bush voglia il dominio della globalizzazione, questo ne abbiamo parlato con William Bloom nel corso della prima puntata, e questo è indubbio. Che voglia proprio il dominio spudorato, direi, visto il personaggio, che voglia un dominio sul mondo che non te racconta, e naturalmente sorpassare l'Europa, che l'ha giudicato uno dei presidenti meno popolari di tutti i tempi, addirittura meno popolare di Reagan, si pensava che nessuno potesse raggiungere un grado inferiore di popolarità in Europa di quella avuta da Reagan, e invece Bush almeno in questo è riuscito grandiosamente. Secondo me il fatto di essere stato confermato dagli americani, mentre era sempre stata traballante la sua prima vittoria, questa vittoria, non dico a furor di popolo, ma molto più stabile della prima, gli darà una tracotanza della quale spero non dovremo pagare tutti un prezzo troppo alto. Bianca, grazie mille di essere stata con noi, grazie mille per questi chiarimenti. Buon pomeriggio e buon lavoro. Ciao. Ciao.